Essere e benessere di Nicoletta Carbone. I posti ci sono, vi aspettano, non avete che da accomodarvi a Mangia con me. 37 anni, impiegata, Paola vive a Napoli. È solare, simpatica, estroversa. Le piace mangiare, ma anche cucinare per gli amici. Sono una cuoca abbastanza brava e quello che mi piace cucinare soprattutto sono lasagna, mi piace cucinare dolci in generale, anche la pizza, sì. Purtroppo io ho un grosso problema, a me piace mangiare tutto e quindi non ci posso fare niente, non so rinunciare ai piaceri della tavola. In passato ha provato a seguire delle diete, però ad andare giù non è stato l'ago della bilancia. Ma il suo umore. Praticando la corsa, che è uno sport abbastanza stancante, poi ho rinunciato a fare la dieta proprio perché mi sentivo troppo stanca e troppo non riuscivo proprio mentalmente neanche a sostenere questa dieta. Il mio umore durante la dieta è un po' altalenante, infatti inizialmente parto con tutti gli entusiasmi di questo mondo, poi successivamente con l'arrivo della stanchezza che si fa sentire dopo una settimana, 10 giorni, cala a picco. 5 4 3 2 1 0. Adesso però Paola vuole spezzare questo circolo vizioso ed è pronta a una nuova sfida. Il mio obiettivo per la partecipazione a questo programma è proprio quello di trovare un giusto equilibrio, prima per perdere peso e mantenere quella che è la mia performance di allenamento o addirittura migliorarla, successivamente trovare un equilibrio tra quello che è il mantenimento del peso e le performance sportive. Chiedo troppo? Benvenuta Paola, che è in linea con noi. Ciao! Salve, buongiorno! Paola, sei pronta? Sono prontissima. I nostri amici possono conoscerti andando sul nostro sito, ma tu raccontaci in diretta come ti senti. Anzi, facciamolo con un gioco. Se tu dovessi descriverti con il gioco del se fosse, sì? Che cosa, come ti racconteresti? Allora, se fossi una torta, sarei una bella torta caprese. Se fossi una pianta, sarei un girasole. Bello. Se fossi una città, sarei sempre la mia città, Napoli. In un mese particolare o sempre? Ad agosto. Napoli ad agosto. E se sì. Tu fossi una canzone, invece? Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Eccoli qui, sono tornati i nostri alti e bassi che anche in questa edizione di Mangia con me ci accompagneranno, scegliendo per ogni nostro invitato una canzone che lo rappresenta, che gli porterà fortuna. In linea con noi abbiamo Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno Nicoletta e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andrea, perché questa canzone? The Bare Necessities è tratto dal libro della giungla, l'avrete riconosciuta. Certo. Inizia dicendoti basta un po' che briciole, lo stretto indispensabile, i tuoi malanni puoi dimenticare. Il nostro augurio per Paola è che non deve arrendersi, ci vuole sicuramente tanta pazienza, ma basta continuare a fare sport mettendoci energia, valorizzare le cose semplici della vita, seguire i consigli di Mangia con me per ritrovare la forma e il buon umore che adesso le manca. Grazie Andrea. Grazie a voi. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries. E sulle note degli alti e bassi prendiamo subito il ritmo per cominciare. Ci mettiamo subito al lavoro con il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Paola. che è diciamo un caso molto tipico, Nicoletta, cioè Paola ha evidentemente qualche chiletto, non molti, da smaltire, però fa fatica a trovare un equilibrio tra uno stile alimentare adeguato al suo metabolismo e però anche ai suoi desideri, ai suoi impulsi e al suo umore, che quando ovviamente si ritrova a gestire una dieta troppo restrittiva non ce la fa, e da un punto di vista proprio dell'energia, del tono dell'umore ne risente. Quindi è un gioco di equilibri quello che dobbiamo realizzare assieme a Paola. Dottor Ongaro, mi sembra un caso particolarmente interessante e la parola chiave potrebbe essere buon umore. La parola chiave potrebbe essere sicuramente buon umore, cioè far creare un programma per Paola che combini le sue esigenze metaboliche, associ bene le sue esigenze metaboliche con le esigenze che tutti noi abbiamo, cioè di mantenere anche un piacere nel mangiare e di garantirci che il mangiare ci fornisca quel minimo di energia necessaria che nel caso di Paola, che tra l'altro fa attività fisica in modo regolare, non può essere troppo ridotta. 800 24 00 24, questo è il numero verde per accomodarsi alla tavola di Mangia con me. Naturalmente potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter. Paola, ti riconosci? Ti piace la parola chiave che ti abbiamo abbinato? Sì, assolutamente sì. Mi sento una persona molto gioiosa quando non sto a dieta. Quando sto a dieta riesco ad aggiungere comunque dei risultati. Sì, comunque sì, sono il buon umore è perfetto. Dottor Ongaro, quindi tutto da copione. È tutto da copione, compreso diciamo qualche piccolo errore che Paola commette, anche semplicemente il passaggio da un'alimentazione, chiamiamola così, senza particolare controllo ad una dieta che poi diventa troppo ferra. È un errore tipico che facciamo in molti, invece bisogna imparare a gestire nella quotidianità il proprio stile alimentare, evitando proprio di sentirsi a dieta e di mettersi a dieta e stando ovviamente molto attenti a garantirci una sufficiente quantità di sazietà, una sazietà corretta attraverso gli alimenti corretti, che non sono necessariamente, devo dirlo, i dolci, le lasagne e la pizza. La lasagna, ha detto Paola, perché è al singolare, lasagna. Non possiamo, Nicoletta, non dobbiamo rinunciarci troppo, buttarle via, evitarle sempre. Dobbiamo imparare a gestirle nella quotidianità e dobbiamo dare più spazio agli alimenti che ci fanno meglio. Quindi, dottor Ongaro, chiamiamo i nostri amici da casa. Se vi riconoscete nel caso di Paola, siete spesso a dieta, la dieta vi toglie il buon umore, anche la voglia di fare, chiamateci perché i nostri esperti sono pronti per farvi cambiare rotta, per rimettervi in equilibrio. Sì, vorrei anche approfittare, Nicoletta, per riprendere in mano un concetto che è quello dell'indice di massa corporea, di cui abbiamo parlato varie volte, che è un concetto utile per capire quanto bisogno abbiamo di perdere peso, e potremmo utilizzare oggi questo come quizzettone, cioè abbiamo detto che Paola è alta 1,64 e pesa 62 kg, allora vorrei chiedere agli ascoltatori che calcolassero loro l'indice di massa corporea di Paola, magari anche il proprio, e chiedere: è giusto 18,5, 22 o 19,3? Ricordiamo ancora, Paola è alta 1,64 e pesa 62 kg. Allora, per il primo che risponde correttamente all'800 24 00 24, al quizzettone proposto dal dottor Ongaro, ripetiamo i dati che vi possono servire: è alta 1,64 e pesa 1,64 e pesa 62 kg. Io proporrei un neonato. È nato ieri, è uscito nelle librerie Guida al benessere, 99 consigli per vivere al meglio, un libro che mi sta particolarmente a cuore perché ho scritto insieme al bravissimo Alberto Pellai e alla straordinaria Paola Reverso un libro che vi propongo oggi, che ha proprio l'obiettivo di nutrire, a proposito di Mangia con me, il nostro benessere a 360 gradi con 99 consigli. E naturalmente 800 24 00 24 per rispondere al quizzettone e avere la guida al benessere a casa vostra, ma naturalmente allarghiamo l'invito a chi ci segue su Facebook, potete scrivere anche lì la risposta esatta o al 349-238-6666. Dottor Ongaro, quindi ci sarà da lavorare, su che cosa punteremo? Allora, intanto, Nicoletta, vorrei una copia del libro perché non ce l'ho, quindi dopo aver regalato gliela do con l'autografo. Miei, esatto, dopo aver regalato tanti miei libri, adesso è ora anche che io ricevo un libro da qualcuno. Sì. Ok, no, quello che dovremmo lavorare sul caso di Paola è il concetto, secondo me, di sazietà e di garantire a lei questo buon umore dai cibi che non impattano negativamente sul suo metabolismo, in particolare, secondo me, aumentando la quota di verdure e soprattutto di proteine. Sì. Ricordiamo che le proteine, che spesso c'è un approccio un po' schizofrenico con le proteine. Da un lato si sente parlare costantemente di diete iperproteiche, dall'altro si dice attenzione che troppe proteine fanno male. Beh, infatti, come sempre, l'equilibrio è nel mezzo, ma le proteine sono molto importanti nelle diete perché danno più sazietà sia dei grassi che dei carboidrati. Quindi mangiando proteine noi ci sentiamo pieni prima, se le abbiniamo alla verdura ancora di più, perché la verdura è ricca di fibra e lavorerà ancora ad aumentare la sazietà, e quindi tenderemo meno a cadere nella trappola appunto dei dolci, della pizza, delle cose che sono oggettivamente più buone, ma magari da gestire con un po' di attenzione. Paola, stai ricevendo tutto? Sì, sì, sì. Stai prendendo appunti? Noi naturalmente poi metteremo a disposizione di Paola e di tutti voi che vi riconoscete nel caso di Paola i consigli del nostro esperto sulla pagina di Mangia con me. E intanto abbiamo Domenico da Modena. Oggi ci vogliamo proprio confrontare su quella sensazione che quando ci mettiamo a dieta avvertiamo, è proprio tangibile, l'umore che cala, l'energia che si spegne, quindi non abbiamo più voglia di fare attività fisica anche se siamo sportivi. Domenico da Modena, buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Niente, io volevo portare a Paolo una mia testimonianza. Ho 55 anni, alto 1,70 m, pesavo il 10 di settembre 92,7 kg. Ho intrapreso attraverso una consulenza alimentare una dieta, non so se posso fare il nome della dieta specifica, comunque sono in chetosi dal 10 di settembre. E ad oggi ho perso quasi 9 kg. Sì. Mangio solo ed esclusivamente verdura. Due volte la settimana da qualche giorno mi è stato concesso un'alternativa, un pasto a settimana alternato tra carne o pesce. Sì. E perdendo 9 kg effettivamente il mio disagio maggiore è quello dell'umore, che a volte tende ad essere abbastanza, diciamo, sul depresso, visto che mi manca un'alimentazione più varia e più gustosa, se vogliamo. Grazie Domenico per questa sua telefonata. Dottor Ungaro, anche Domenico si trova a fare i conti con l'ago della bilancia, scende, ma scende anche l'umore. Beh, però diciamo così, come battuta, se l'è un po' cercata Domenico, perché è evidente che tutti gli approcci nutrizionali che sono un po' più estremi, lui ha parlato di chetosi, quindi evidentemente sta facendo un approccio diciamo iperproteico e che esclude completamente certi tipi di alimenti, possono generare una perdita di peso anche abbastanza rapida, però non sono certamente un'alimentazione bilanciata a lungo termine e sicuramente sulla sfera dell'umore hanno un impatto peggiorativo. Quindi quello che posso dire io a Domenico è, se ha intrapreso questa strada, che la percorra fino al raggiungimento del peso corporeo che vuole raggiungere, poi però deve essere consapevole che a lungo termine deve adottare uno stile alimentare corretto, che non è né quello che aveva prima evidentemente, ma nemmeno quello di questa dieta. Abbiamo in linea con noi anche Marianna, che ci chiama dalla provincia di Padova. Ci sono ancora dei posti, accomodatevi. 800 24 00 24. Marianna, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Senta, io volevo così parlare del mio problema. Fino ho 62 anni e fino a 54, più o meno il momento in cui sono entrata in menopausa, sono stata una magra e pesavo 50 kg, massimo 52-53, ero alta 1,61. E niente, poi ho preso piano piano 20 kg e praticamente sono arrivata a 72 kg. A quel punto mi sono messa sono stata seguita e sì, nell'arco di un anno ho perso, nell'arco quasi di un anno, sì, ho perso 10 kg. E niente, sono riuscita a mantenere un po' lo stile che avevo imparato di mangiare tutti i pasti, sì, non mangiare fuori pasto. E poi che è successo, Marianna? E poi niente, praticamente sono riuscita per un po' di mesi e poi pian piano sto riprendendo e sono molto demoralizzata. Perché... Marianna, non si demoralizzi, si accomodi e mangia con me, compili il nostro questionario. Abbiamo trattato un caso simile, dottor Ongaro, nella prima edizione di Mangia con me. Dottor Ongaro, lo leggiamo tante volte, si perdono i chili e poi in qualche modo si riacquistano. Sembra che le diete alla lunga non funzionino, forse perché stiamo a dieta. Marianna è un altro esempio tipico, insomma, credo che quasi tutti quelli che hanno avuto un problema di peso hanno toccato questa esperienza personalmente, cioè il problema è sì, perdo peso perché ho un'alimentazione molto controllata, però questa alimentazione controllata mi costa un grande sacrificio e mano a mano che mi avvicino all'obiettivo raggiunto o che lo mantengo nel tempo, poi l'attenzione nei confronti dell'alimentazione diminuisce proprio perché è percepita come un sacrificio, manca il piacere, manca la varietà e quindi piano piano poi si ritornano ad accumulare i chili, alle volte, come spesso accade, col famoso effetto yo-yo, addirittura aggiungendone rispetto a prima. Ecco, credo che qui sia bene ricordare che è proprio per questo che bisogna fare sempre più attenzione allo stile alimentare nel corso della propria vita e non puntare sulla dieta temporanea come una soluzione, diciamo, da raggiungere in poco tempo e con un grande sacrificio sul gusto e sulla varietà, perché poi a lungo termine questo è l'effetto, insomma. È stato stimato che è una percentuale altissima di persone che fa una dieta classica, poi riprende i chili che aveva perso, insomma. Io vi ricordo il nostro quizzettone. Paola è alta 1,64, pesa 62 kg, il suo indice di massa corporea è? Scriveteci al 349-238-6666, potete mettere anche la risposta sul nostro profilo Facebook e chiamarci all'800-24-0024. A chi ci fornisce la risposta corretta, guida al benessere, 99 consigli per vivere al meglio che possiamo anche farvi ricevere a casa con dediche, un libro che ho scritto insieme a Paola Reverso ed Alberto Pellai per nutrire il nostro benessere. Adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma prima voglio sentire Paola. Paola, abbiamo così illustrato un po' il tuo caso. Il dottor Ongaro ha tratteggiato quello che può essere la tua impostazione per raggiungere l'equilibrio e recuperare il buon umore. Te la senti ancora? Assolutamente sì. Allora, Paola è con noi e noi siamo con lei a Mangia con me, mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I'm in the a tavola con Paola. E Paola in linea con noi è la nostra prima invitata d'onore alla tavola di Mangia con me per ritrovare il buon umore, l'energia in equilibrio. Paola, ti piace la canzone che hanno scelto per te Gli Alti e Bassi? È carinissima. Perché tu sei anche sportiva e magari te la ascolti. Sì, la conosco più per i miei nipoti che sono piccoli e quindi hanno visto Il Libro della Giungla. Allora, noi iniziamo dalla tavola Mangia con me. Intanto si sta scaldando negli spogliatoi di Mangia con me, in ingresso, diciamo così, il professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a Paola, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sono qua negli spogliatoi, mi scaldo e fra un po' entro in campo. Preparatore atletico di sportivi, pensa Paola a livello internazionale, pensa tu in che mani ti mettiamo, nelle mani del dottor Ongaro, nelle mani del professor Tirelli, autore di un libro che io vi suggerisco sempre perché voglio che voi lo leggiate, si chiama Tecniche Complementari Sportive, quelle che insegna e pratica nel suo centro di Milano e che insegna anche a noi che seguiamo Essere Benessere in Mangia con me. Il professor Tirelli aiuterà Paola a cambiare il suo modo di allenarsi e quindi se in qualche modo Paola vi assomiglia non perdetevi i consigli del professor Tirelli che farà conoscere a Paola i suoi punti magici. Professor Tirelli, anticipiamo rapidamente ma proprio tanto che lei si prepara, si fa un po' di stretching. Sì, beh, ci sono dei punti molto importanti di reattività energetica, quindi stimolano il metabolismo. Uno di questi è posto sotto al ginocchio, proprio nella parte laterale del ginocchio, dove inizia quello che si chiama muscolo tibiale anteriore, ma di cui dopo vi parlerò molto molto meglio. Però quello è un punto, si chiama 36, punto 36 dello stomaco, ed è uno dei punti del meridiano apposta dello stomaco. Quello è proprio quello del metabolismo, quindi aiuta ad accelerare, ma poi con dei movimenti particolari che dopo vedremo, di stretching, si potrà migliorare ulteriormente questa nostra capacità. Paola, quindi localizza il ginocchio e tieni a mente il 36. Invece ai nostri ascoltatori, dottor Ongaro, noi che cosa abbiamo chiesto? Il suo quizzettone riguardava l'indice di massa corporea, un valore che ci aiuta a capire che cosa? Beh, ci aiuta a posizionare, diciamo, il nostro peso corporeo in una scala che va dal sottopeso al normopeso al sovrappeso, e ricordiamo Paola è alta 1,64 e pesa 62 kg e dobbiamo definire se è sovrappeso di quanto lo è. Bravo che l'ha ripetuto lei, perché io che parlo con la S non sono tanto chiara quando devo dire 64, gli amici si vedono, eh? Allora iniziamo dalla tavola, dottor Ongaro, prima il piacere poi il dovere, quali sono le indicazioni per la prima settimana della nostra Paola? Cosa deve fare, aggiungere, sostituire? Che programma ha pensato per lei? Noi sappiamo, e voglio dirlo anche a chi per la prima volta ascolta Mangia con me, che i nostri esperti seguiranno i nostri partecipanti per le prime 4 settimane, impostando per loro esercizi, un menù settimanale, consigli, una consultazione settimanale, e poi nelle 4 settimane successive saranno i nostri partecipanti, dopo aver metabolizzato, è giusto dottor Ongaro la parola? Come no? Ecco, gli input che sono stati dati dai nostri esperti si metteranno un po' a disposizione, quindi si faranno controllare, ma faranno anche loro una sorta di autocontrollo, di monitoraggio. Allora, dottor Ongaro. Beh, allora, noi abbiamo bisogno poi dell'aiuto di un cuoco, bravo, che ci trasformi le nostre indicazioni mediche in un regime alimentare che sia appunto piacevole per Paola, che lo riesca a mantenere a lungo termine, e una chiave centrale sicuramente sarà quello del, come dire, arricchire la componente di verdure nell'alimentazione, perché tutti fondamentalmente sappiamo che le verdure fanno bene, è una delle poche cose su cui c'è un consenso assoluto nel mondo scientifico, e sappiamo anche che sono fondamentali per perdere peso e regolarizzare il metabolismo, però c'è anche moltissima gente che fa fatica a mangiare le verdure, c'è molta gente a cui non piacciono, e raramente le persone arrivano a mangiare la quantità di verdure che invece è consigliata, certo, che è parecchia, insomma, al giorno. Quindi la cosa, sì, che io sostanzialmente chiederò è proprio che il nostro cuoco ci aiuti ad arricchire questa componente, rendendola per Paola il più piacevole possibile. E noi il nostro cuoco ce l'abbiamo, il cuoco di Mangia con me, Stefano Polato, che è una new entry insieme al professor Tirelli di questa nuova avventura. Stefano, benvenuto. Buongiorno a tutti Nicoletta, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Stefano, tu sei un cuoco un po' speciale. Sì, diciamo che il mio percorso è stato un po' particolare, diciamo. E ami, se tu dovessi dare una definizione dello stare ai fornelli, di ricevere amici, noi Mangia con me, noi sottolineiamo anche il piacere della convivialità. Stefano. Certo che sì, abbiamo etichettato il caso di Paola con il termine buon umore. Ecco, mi trovi perfettamente in sintonia, visto e considerato che io interpreto la cucina come la ricerca di felicità. Quindi uno che si approccia alla cucina con la giusta consapevolezza tecnica, che questa posso benissimo trasferirla io, e la giusta consapevolezza scientifica, quella che trasmetteranno i dottori che abbiamo in studio. Noi siamo a cavallo. Esatto, siamo a cavallo. Senti, e possiamo raggiungere appunto la felicità. Stefano, a te il compito che ha dato il dottor Ongaro è di rendere intriganti le verdure. Noi spesso cerchiamo, ci sono persone che proprio non le mangiano, li trovano veramente alimenti con poco appeal. Tu dovrai in qualche modo fare questa sorta di magia, a proposito di punti magici che suggerirà anche il professor Tirelli. Sì, guarda, io mi sento particolarmente fortunato per un semplicissimo motivo, per la stagione che stiamo passando, per la stagione dell'anno che stiamo attraversando. E, l'autunno, una stagione a cavallo fra l'estate e, sì, l'inverno, quindi abbiamo una vastissima disponibilità di prodotti, quelli che terminano con l'estate e quelli che iniziano, le primizie autunnali, quindi zucca. Scusate il campanilismo, ma è radicchio di Treviso. Certo. Funghi, ti viene da ridere anche a te. Sì. Abbiamo una scelta vastissima, quindi possiamo disporre di prodotti estremamente, estremamente saporiti, colorati, che ci possono appunto far divertire in cucina. E non esagero dicendo che questo periodo per noi cuochi è proprio il momento più divertente. E poi seguiremo il principio della stagionalità. Certo che sì. Per che fa risparmiare. Certo. Allora, il primo motivo è perché abbiamo la massima espressione dei colori, dei gusti, dei sapori e delle qualità nutrizionali di questi alimenti. In secondo luogo perché se riusciamo a seguire il principio della stagionalità all'interno di una cucina, riusciamo a risparmiare oltre il 30% sulla spesa. Paola, tu come te la cavi con le verdure? Tanto, tutte, bollite. Anche bollite, ma immagino che il nostro cuoco ti suggerisca invece delle cotture un pochino più sfiziosette, Stefano? Sì, più che sfiziosette sono cotture studiate ad hoc per ogni tipo di alimento. E in questo caso, nella prima ricetta che Paola avrà modo di provare nel menù di oggi, avremo i broccoli romani. La cottura ideale per esprimere al meglio il broccolo romano è la cottura al vapore, una cottura spesso considerata insipida, un po' smorta, che non riesce a conferire particolare gusto all'alimento, che invece a mio avviso è la marcia in più di questa tecnica, nel senso che riusciamo a non intaccare il cibo, visto certo. Considerato che non entra in contatto diretto con l'acqua. Poi se vogliamo dare una marcia in più al nostro prodotto, possiamo benissimo insaporire l'acqua. E certo, con un qualche spezia. E possiamo giocare con i sapori, con i profumi. In questo caso possiamo aggiungere all'acqua due bacche di coriandolo. E voilà. E in questo modo abbiamo il gusto in bocca prettamente invernale del broccolo ed un ricordo all'estate con la freschezza che ci dà il coriandolo. Mamma mia, ma questo è un poeta. Dottor Ongaro, sulle verdure io sono certa che il nostro Stefano farà dei miracoli, perché le renderà appetitose anche per le persone che generalmente non le amano. Ma la seconda indicazione che lei ha dato per questa prima settimana di Paola sono le proteine, consumo di proteine. Gli ascoltatori mi stanno già scrivendo, ma proteine quali? Perché qua siamo avanti a Mangia con me. Animali o vegetali? Beh, è una giusta domanda, una giusta osservazione. In realtà la risposta è entrambe, cioè non c'è ragione per prediligere esclusivamente una rispetto all'altra, sono entrambe consentite, cioè le proteine vegetali, in particolare parliamo dei legumi, e le proteine animali, dando soprattutto una predilezione per il pesce, in particolare ovviamente, come abbiamo sempre detto, il pesce azzurro, ma anche delle carni magre, certo. Di origine, in particolare se di origine controllata ancora meglio, adesso ci sono molti allevamenti al pascolo addirittura da cui ci si può rifornire, quindi anche questa è un'opzione interessante. E le proteine per Paola, ripeto, sono importanti perché dobbiamo cercare di darle un senso di sazietà, di riempimento efficace e continuativo nel corso della giornata, in modo che non cada troppo in tentazioni legate invece ai carboidrati, che mm-hmm. non toglieremo, perché lei avrà comunque bisogno di una quota di carboidrati che forniranno quell'energia che le serve per affrontare i suoi allenamenti nella maniera migliore. Tra poco allenamenti, ma non vogliamo mica togliere la pizza alla nostra Paola. In qualche modo riusciremo naturalmente a suggerirle la pizza ideale, l'impasto ideale. Stefano Polate in linea con noi, il professor Tirelli ormai è caldissimo, scaldatissimo, prontissimo. Dopo le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme con Mangia con me. Essere e benessere. Stefano, prima di salutarci e di rimandare i nostri ascoltatori sul sito dove potranno vedere la prima settimana di menù che hai concordato insieme al dottor Ongaro per cucirla proprio sulle esigenze di Paola, la pizza c'è. Stefano? A questo punto dovresti darmi un minuto per trasformarmi in Capitan Ventosa, visto che è napoletana e è, diciamo che Paola deve cercare di trovare impasti che contengano una buona parte di farine integrali, magari impasti indiretti ottenuti tramite il lievito madre, quindi estremamente naturali. E avremo modo di approfondire anche certo. questo tema. Stefano, ma e come condimenti, scusami, sì? Nicoletta, metterei semplicemente dei pomodori pelati, dello stracchino, e del basilico o delle alici sott'olio se amiamo il pesce, oppure dei semi oleosi come semi di girasole o semi di zucca. Ecco che abbiamo voilà. Una pizza tra virgolette, nutrigenomica. Nutrigenomica, grazie. Stefano, mi è piaciuta la definizione di pizza nutrigenomica. Allora ci affidiamo ai consigli di Stefano Polato, che in sinergia col dottor Ongaro decide un po' i vostri menù settimanali. Grazie a Stefano Polato e intanto noi stiamo pronti con il professor Tirelli. Professor Tirelli. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, che cosa le facciamo fare? In due minuti di spiegazione per Paola, sintetici, ma per arrivare proprio al cuore del problema. Sì, Paola compie già ottimi esercizi di potenziamento muscolare e di carattere aerobico, quindi di resistenza. Quello che mancherebbe probabilmente è quella parte invece di allungamento muscolare, che è necessario per smaltire le tossine più velocemente, ma al contempo per interessare quei muscoli che sono associati a dei canali energetici importantissimi. Per esempio, il quadricipite, quello che è tutta la parte muscolare della nostra coscia anteriore, è associato a un canale di energia denominato stomaco. In effetti, se noi sviluppiamo degli esercizi di allungamento muscolare, che poi vedremo anche nel sito di Radio 24 che verranno date agli ascoltatori, allora in quel caso attiveremo sia la parte muscolare, fisica, sportiva, ma anche la parte di assimilazione di quello che è il processo proprio specifico dello stomaco. In poche parole, mi muovo in un certo modo, ma riesco a digerire anche meglio, proprio perché attivo anche questi canali energetici. D'altra parte, credo che proprio in questo Paola abbia bisogno anche di attivare quelle che sono, così come dire, le endorfine naturali, perché in questo caso lei sente una necessità di riattivare il buon umore durante le diete. Allora, per esempio, c'è un altro tipo di esercizio molto importante, che è quello di immaginare di estendere le braccia come se ci stupissimo di fronte a un bellissimo paesaggio. Quando diciamo che bellezza, sì, a quel punto estendiamo proprio le braccia, quindi il bicipite, le muscoli dell'avambraccio e della mano, stiamo attivando muscoli importanti del deltoide anteriore, bicipite ed altri, ma stiamo attivando anche il meridiano del cuore, del pericardio. È inserito in questo contesto perché stomaco e emozioni sono tra loro estremamente correlate. Quindi, professore, mi scusi, possiamo dire che la prima settimana lavoreremo su questo stretching energetico? Sì, nella prima settimana darò tre esercizi di stretching energetico da farsi al mattino, possibilmente, sì, e tutti i giorni. È fondamentale perché si sentirà quotidianamente e nel proseguo dei giorni la differenza proprio emozionale. E Paola sarà la nostra testimonial, ci scriverà e ci dirà se facendo gli esercizi, fateli anche voi, suggeriti dal professor Tirelli, riacquisterà energia e buon umore. Professor Tirelli, grazie, la lascio al suo lavoro. Nel grazie suo centro di Milano, grazie, buona grazie. Giornata. E buona energia a tutti. Grazie anche a lei. E in tempo di crisi Mangia con me vuole essere anche un'occasione per imparare a mangiare senza sprechi. Costa poco, rende molto, direi che basta usare la testa e un po' di metodo, i vantaggi sono tanti, non si buttano soldi e soprattutto non si butta inutilmente roba nella pattumiera di casa. Prendetela così, Mangia con me insegna a mangiare bene per stare meglio, ma metta a dieta la pattumiera, la rende slim. Ci aiuta il professor Andrea Segre, presidente di Last Minute Market e autore di Cucinare senza sprechi, Ponte alle Grazie editore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. È una vera sfida questa. È una bella sfida, Sì, perché mettere a dieta la pattumiera, mangiando bene, risparmiando, secondo me ci metterà di buon umore, che è un po' il tema, no, della puntata di oggi. Dobbiamo partire dalla fine, perché tutto finisce lì, nel bidone della spazzatura. La cosa paradossale, anche in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo adesso, è piena di cibo ancora buono. Tutto finisce lì dentro, ma noi non ci rendiamo conto che gran parte è ancora consumabile. Allora, forse possiamo iniziare questo percorso, questa sfida della dieta della pattumiera per stare meglio noi e risparmiare cercando di abbattere quei 3-4 totem dello spreco sostanzialmente. Partiremo dal carrello della spesa, le etichette, le scadenze, la spesa, come farla, il frigorifero, questo strumento quasi sconosciuto che ha delle temperature diverse, delle posizioni, e poi naturalmente i fornelli, per arrivare proprio lì ad averla vuota la pattumiera. La chiameremo spreco zero, questa questa visione, diciamo, cioè da dovremo aprire e non trovare più niente dentro, e io credo che saremo un po' più allegri tutti. Grazie al professor Segre. Professore, le do appuntamento quindi alla prossima settimana. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Intanto abbiamo Alessandra da Perugia, il dottor Ongaro è ancora in linea con noi, la nostra Paola che è pronta per fare il suo stretching e sicuramente pronta per assaggiare anche le ricette che ha preparato per lei Stefano Polato. Alessandra da Perugia ci dice forse un numero, il numero magico? Alessandra? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma io ho calcolato 23,05. Dottor Ongaro? Diciamo che 23, diamo buono per 23, 23,8 sì. Si calcola il peso diviso l'altezza in metri al quadrato e diciamo questo ci indica che nel caso di Paola siamo ancora nel range cosiddetto del normopeso, anche se stiamo arrivando al limite massimo del normopeso, quindi l'idea di perdere qualche chilo di massa grassa non è assolutamente sbagliata. Allora, Alessandra da Perugia riceve a casa il libro che ho scritto insieme a Paola Reverso e al dottor Alberto Pellai, Guida al Benessere. Vi saluto tutti. Essere e benessere.